Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Exalge, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Casa da Paes Radio Edition. Settimana scorsa ad oggi è successa una cosa importante, ovvero in via Francesco Ferrucci ha riaperto Exalge, quindi è uno spazio che anche fisicamente potete andare a visitare tutti i giorni dalle 10 alle 22. Se controllate i vari siti Facebook e Instagram potete trovare la programmazione delle attività. Mentre noi continuiamo ad andare in onda, come tutti i venerdì, io sono Nina Terruzzi e questa è un'ora di musica dedicata al jazz e alle sue derivazioni contemporanee. Il brano con cui iniziamo stasera si chiama Color of Noise ed è la title track dell'ultimo disco del bassista, multistrumentista, compositore Derek Hodge. What is the color of noise? The color of noise. The color of noise. The color of noise. Thank you. Questi erano invece Hobby Horse con Goodnight Moon, il disco uscito durante il lockdown del 2020. Questa traccia si chiama Elephant Graveyard ed è la mia preferita del disco, che è bellissimo. Loro sono un trio formato da due statunitensi che vivono a Foligno e un fiorentino, Stefano Tamborrino, Dan Kinzelman e Joe Raymer. Il prossimo brano invece si intitola Part 2 ed è una traccia da Chicago Waves di Carlos Nino e Miguel Artwood Ferguson. Questo disco è uscito per International Anthem quest'estate, è la registrazione di un live che non era previsto fosse una registrazione, insomma, fosse un disco, invece è piaciuto tanto da essere pubblicato. Thank you. We'll be right back. E dopo le onde di Chicago siamo andati in Inghilterra con i Cocoroco, Carry Me Home. Loro sono un gruppo che sta girando parecchio negli ultimi anni. E poi un brano Not Even Equal da un quartetto italiano che si chiama A Particle, Michele Bonifati, Giulio Stermieri, Ermanno Baron e Cristiano Arcelli. Questo è un pezzo dal loro secondo disco, A Glamorous Action. Quello che andiamo ad ascoltare ora invece è un brano, anche questo tratto da un secondo disco. Loro sono Heroes Are Gang Leaders, che è un collettivo statunitense che cambia, è composto da molti artisti, compresi poeti e scrittori, e non solo musicisti. Il loro secondo disco si chiama Artificial Happiness Button, e da lì questa è London Butterfield. Thank you. treating like a breakfast neighbor. Lena, no. Heroes are Gang Leaders, collettivo sorprendente che è nato come omaggio ad Amiri Baraka e poi ha preso la sua strada scrivendo e producendo brani super interessanti. E quello che invece andiamo a sentire adesso è un nome più classico, più conosciuto. Questa è Beautiful Telephones parte 2 da Life Goes On, ultimo disco di Carla Bley con Andy Shepherd e Steve Swallow. Mm-hmm. La chitarra di Jeff Parker, Suite for Max Browner, suo ultimo disco, e questa era Narcissus. Loro, non so se vi è capitato, magari qualcuno di voi c'era al Blue Note, ormai non so neanche più quantificare quanti mesi fa, a sentire questo gruppo per l'uscita di questo disco. E ora vi lascio invece con i Pulsar Ensemble. Odd Square è il nome del loro primo disco del 2018. Questo è Little Square, mentre aspettiamo l'uscita del prossimo disco che dovrebbe avvenire a breve. Loro sono quattro batteristi e un DJ, tutti distribuiti tra Milano e Bergamo. E questo disco era piaciuto molto e l'avevamo anche ospitato alla Casa da Paes Material Edition nella sua prima stagione. Il concerto di chiusura era stato proprio dei Pulsar Ensemble ed era stata una bomba pazzesca. Thank you. Anche questo venerdì siamo arrivati alla fine di questi 60 minuti di musica. L'ultimo brano che ascoltiamo è Provvisorio della Tower Jazz Composer Orchestra, un'orchestra tutta italiana che si raduna al Torrione Jazz Club di Ferrara. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a venerdì prossimo con Casa da Pais Radio Edition. Vi ricordo che esistiamo sia su Facebook che su Instagram, che esiste una mail che è casadapaes@gmail.com e che Exalge è aperto e vi aspetta. Buona serata. Ghosts and fears to fear.